todos a todos los vatos. Pepe, can show me that you can. Pepe, can show me that you can. Pepe, can show me that you can. Pepe, can show me that you can. Bring on your bigger, you won't believe what you're gonna hear. E 12, siamo anche stasera in ritardo qui dagli studi di Radio Onda d'Urto sul 99.6. E questa è la 64esima puntata di Radio BAM, la trasmissione curata dalla fanzine BAM Magazine, che trovate su www.bam-inmezzomagazine.it. E adesso, caro mio Cischi, che mi aiuti anche stasera. Ciao Franz. Anche su iTunes, attraverso il podcast, quindi se avete iTunes vi basta connettervi, digitare Radio BAM e iscrivervi gratuitamente. Potete vedere la lista aggiornata degli episodi di quest'anno, scaricarlo gratuitamente, insomma. Quanto sei high tech, Franz. Veramente, ci ho messo... Franz Barcella. Cioè, bisognava semplicemente per fare questa cosa scrivere un foglio HTML molto semplice e basilare, io ci ho messo circa un anno a farlo. Ma... tu hai fascino dalla tua, esatto. Cazzo te ne frega di... E a proposito di fascino, stasera abbiamo anche una terza persona con noi, ovvero il nostro ospite John. Ciao a tutti, sono John Terrible. Qualificati stasera. Cosa? Amico e... Hai portato gli stupefacenti, John, perché è per quello che sei qui. Già in grandoso se ne sono andati, per cui non mi vedrete non mi sentirete parlare molto questa sera. Naturalmente tutti e tre qua siamo in attesa della serata del Lio Bar. Tra l'altro stasera non so nemmeno cosa c'è, ma insomma andremo là. Stasera il Lio Bar mi sa che è chiuso. C'è la figa di John. Stasera, tra l'altro. Esatto. E tra l'altro anche Cischi, attenzione, abbiamo un appello da fare, perché il nostro amico Cischi qua presente un appello Radio Bar, venerdì scorso più di Brescia ha conosciuto una ragazza, anzi una ragazza ha conosciuto Cischi perché l'ha abbordato, secondo il suo dire. Assolutamente sì, John Terrible è testimone. Ragazza mora, salta fuori, chi sei? Non mi ricordo esatto, più. Esatto, perché poi la ragazza mora è stata avvistata presso Lio Bar con un pelatone esatto, palpone. Esatto, con un pelatone palpone, maledetto. Mano sotto la gonna. Vabbè, abbiamo già cazzeggiato abbastanza, abbiamo già fatto capire di che pasta è fatto questo programma. Una pasta ripiena di merda. Comunque, settimana scorsa, in quel di Bergamo... Non ce ne voglia Giovanni Rana, Pasta di merda. Settimana scorsa per una volta a Bergamo c'è stato un concerto interessante. Infatti non era a Bergamo ma a Treviolo. E tu non c'eri. E io non c'ero. E me lo sono perso ogni volta che sono a Bergamo, me lo perdo. Lui è Langhorn Slim. Com'è stato Cischi? Tu c'eri invece? È stato figo. Lui è figo nonostante Gigi dica che è di plastica, ragazzo. Ma io ho detto a Gigi che deve smettere di definire di plastica praticamente qualunque band. Va bene. No, è stato figo. Ok. E allora ci andiamo a sentire subito Langhorn Slim, iniziamo questa puntata. Andiamoci. Con lui. Andiamoci. Che pezzo? Non mi ricordo più. Perfetto, allora tratto dal suo ultimo album intitolato Be Set Free, Langhorn Slim con Say Yes. Say Yeah. Gonna land either way. Put on your blue lipstick and I'll put on my Venus boots somewhere in California, but it might as well be the moon. Say yes, say yes. Down the highway, I feel good, I confess. I know sometimes we disagree, but I prefer when you say yes. Say yes, say yes, say yes. Say yes, say yes, say yes. Say yes, say yes, say yes. Say yes. Animal Party di King Khan and Barbecue Show. Questo è il 99.6 di Radio Dodotto. Questa è Radio Bama, la trasmissione più stupida e sconclusionata di tutto, ovviamente, l'etere e anche il web, visto che adesso potete anche abbonarvi gratuitamente tramite iTunes. Vero. Qui Franz, Cischi e ospite speciale John Terrible. Abbiamo già lanciato un appello. Chiunque abbia conosciuto il qui presente Christian Legramanti in arte Cischi settimana scorsa, venerdì scorso, al Latte Più, al concerto degli Hormonauts, è pregata per piacere di far sentire, visto che c'è grande crisi. Così? Così brutto? Ok, va bene. Metti allora, di bere Bex. Si faccia viva la gonna, si faccia viva. King Khan and Barbecue con Animal Party, tratto dal loro ultimo album, il loro terzo su In The Red, intitolato Invisible Girl, uscito 2 settimane fa. Prima di loro abbiamo sentito i Saints dal loro terzo album con Every Day Is a Holiday, Every Day Is a Party. Più o meno è così anche per noi, visto che non abbiamo un cazzo da fare. Prima di loro i Raining Sound con Is It True. E prima ancora Langer Slim, che il buon Cisco è andato a vedere settimana scorsa in quel di Treviolo. E ha sbagliato a mettervi la prima traccia. Esatto, aveva detto metti quel pezzo lì che mi piace un sacco. Bravo. Poi è partito, era una merda sto pezzo. Invece bravo. Era un ottimo pezzo intitolato Say Yes. Bravissimo. Che trovate nel suo nuovo album Be Set Free. Tra l'altro Langer Slim è ancora in tour in Italia. Lunedì suonerà in quel di Cesena al Nero su Bianco e io sarò là. Al Nero su Bianco? Sei sicuro? Si chiama così il posto? Sì, sì. Okay. Perché? Oh, ho visto oggi, mi sembrava un nome diverso. Probabilmente un nome diverso. Ah, ok. Ex Macello, mi sa. No, quello lì. 360. Probabilmente lo si chiama Ex Macello. Comunque. Così avevo visto. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti a breve, sul nostro sito c'era segnato che settimana prossima, martedì prossimo, sempre dalle 9 alle 10, 65esima puntata di Radio Bam, avremmo avuto gli ospiti, come ospiti, Cute Leapers da Seattle, invece sicuramente non li avremo, anzi probabilmente la puntata sarà registrata, ma i Cute Leapers saranno comunque qui a Brescia, precisamente Ospitaletto, per la serata della Terrazza Live in via... Venite. Non so quale, comunque, Terrazza Live. Io lo so, via vicino alle poste, via... Accanto alle poste, insomma. Non mi ricordo più. Piazza Centrale. Piazza Mercato. Piazza Mercato vicino alle poste. Andata! The Cute Leapers insieme agli Snazzy Boys, grande seratona, si inizia alle 8 di sera perché è un aperitivo. Si paga poco, si beve tantissimo e si danza tutta la notte. Tra l'altro Cute Leapers, che hanno appena pubblicato il loro secondo album, che si chiama Smart Accessories, e che noi abbiamo il piacere di potervi presentare in anteprima oggi. E che avrai il piacere di passarmi a breve, Franz. Andiamo subito a sentirci un pezzo, si intitola Thanks for Not Showing Up. Viva loro. Che probabilmente Cischi dedicherà alla tipa che non si farà sentire. Sì, a lei. Perfetto. Vamos! We give it up to giving up desires. Never really counting on a thing. But why'd you tell us that in your Marriott play in your town and talk about your killer dealer scene? Can't make faces every time we lose one. Can never go to your assholes. But the ones who make the line is with the bands out of here and shit on the road are the ones we are with beers. They make $20 turn into two. When it's security, it's a slow fuck. We say things we're not showing up. Charlie! 99.6 Radio Onda d'Urto, potete anche chiamare qui a Radio Bam al 030 456. Ripeti. Vai, ripeti per bene. 030 456 70. Ok. E naturalmente questo è dedicato soprattutto alla soprattutto peperina, peperone. Call me. Descrivila, come si chiama questo? No, entriamo troppo nel particolare, perché poi qua si sollevano polveroni mediatici inutili. Per no, me, per me qua. Per no. me alla figa, comunque, secondo me. La lettera di licenziamento sta piano piano arrivando alle nostre porte. Io la firmerei già, fosse in te. Nel frattempo, in attesa di firmarlo, segnaliamo il Jail che abbiamo appena sentito con The Biggest Nugget of Them All, tratto dal loro album There's No Sky, Oh My My, se non lo sciogli lingua. Ma tra sei che vada bene, Franz. Ti ringrazio. Mm-hmm. Prima di loro i Box Elders con Hold My Hat. Sai cosa dovresti? Alitare areare ancora di più, perché lì poco. Poi Cute Lepers con Text for Not Showing Up. Viva loro. Viva loro. E ricordiamo, suoneranno il Terrazza Live martedì prossimo. È l'8, saranno in tour in Italia, tra l'altro. In tour in Italia. Suoneranno alla Spezia. Martedì. Ah, questo non lo so. Mercoledì al sito di Savignano in provincia di Forlì, Cesena. E non stai neanche leggendo da nessuna parte, Franz. Grande, Franz. Insomma, questi fanno un giovedì sacco di date. Giovedì a Road to Ruins a Roma al Metz insieme a Kill Time. Venerdì Big Time insieme al suoneranno sempre Kit Lepers. Venerdì al Covo di Bologna, sabato al Medley Pub di Castelnuovo Valtidone, provincia di Piacenza, e domenica una valanga rock veramente di un'intera settimana che si abbatte sulla penisola. Aspetta, questa settimana cosa c'è? Un cazzo. Questa settimana è un cazzo, però noi stiamo tranquilli, ascoltiamo Afro e House, beviamo Bex e ci prepariamo al gran rock della settimana prossima. Dibattivi di prossimo a Terrazza Live. Venite alla Terrazza Live, che è uno dei pochi locali ormai rock rimasti. Forse rock l'unico. Forse l'unico autocontrolla. Ecco, a proposito di Afro, approfitto e c'è anche per salutare il senegalese che mi è venuto a 80 all'ora nel di dietro sabato sera. Anch'io lo saluto, lo stimo e gli voglio bene. Grazie. Dobbiamo fare il culo a Gigi a calcetto, peraltro. A Gigi calcio Rubagotti. Balilla, anzi. Gigi Rubagotti. Al Terrazza Live. Sì. Tanto Gigi che diciamo non apprezza. Cos'è che diceva Gigi? Non apprezza Lengo Slim e dice che è di plastica. Però, come ho già detto, lui dice praticamente di tutto e di tutti. E quindi. Però Gigi, ti vogliamo bene. Sono le 21.41. Qua su Radio Onda d'Urto, come ogni martedì sera dalle 9 alle 10, siete in simpatica compagnia di Radio Bam, con Franz Cischi e stasera anche John Terrible, pronti a regalarvi un sacco di buona musica. Per fortuna commentavamo fuori onda che ci ascoltano in pochissimi, per cui... Ma alla fine non così pochi come... Sì, esatto. Non abbastanza pochi. Abbastanza per vergognarci di sì, noi sì, stessi. Sì, sì, sì. Quindi, invece di vergognarci di noi stessi, quello che passiamo, stavolta andiamo a sentirci un po' di country. Visto facciamolo. Mi hanno fatto notare che suono ben poco country. Ben poco, Franz. Soprattutto ben poco country dannata, e quindi adesso... Scogliamo queste birrette salutando il nostro kebabaro di fiducia Alalal qua fuori e tirando i tappi di sughero nel barile. Esattamente, andiamo a sentirci due o tre pezzi country d'annata. Basta. Viva il country e viva l'annata. Esatto. Viva il kebab. What's the matter with the baby? It's been a ballin' and a squallin' and a kickin' on the wall. Well, I guess it dropped this little bottle, maybe. Oh, daddy, come a runnin' with the water and the rag. Gonna need another little diaper, maybe. No need a hesitatin' or a wonderin' and a waitin'. I know what's the matter with the baby. Oh, mama, rock a baby, daddy, rock a baby too. It's a yawnin' and a gettin' sleepy, maybe. So mama keep a rockin', daddy rock a little too. And at last it's a sleepin' little baby. Well, mama tippy-toeing, daddy tippy-toeing too. depending entirely on the baby. Well, I hear the cock a ringing, just a donging and a danging. Daddy, go and make a little money, maybe. Mama, sleep a little longer, but remember while he's gone, won't you please take care of the baby? Oh, mama, rock a baby, daddy, rock a baby too. It's a yawning and a getting sleepy, maybe. So, mama, keep a rocking, daddy, rock a little too. And at last, it's a sleeping little baby. And at last, it's a sleeping little baby. After all, it's just a little bitty baby. A bird and you was a fish, what would we do? I guess we'd wish for reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to life from reincarnation? If I was a tree and you was a flower, what would we do? I guess we'd wait for the power of a reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like from reincarnation? I love you, and don't you know I always will. You're a girl, I'm a boy, but suppose you was a rose and I was a whippoorwill. If I was a bird and you was a fish, what would we do? I guess we'd wish for reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like from reincarnation? I love you, and don't you know I always will. You're a girl, I'm a boy, but suppose you were a rose and I was a whippoorwill. If I was a bird and you was a fish, what would we do? I guess we'd wish for reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like from reincarnation? Comb your hair and paint and powder. You act proud and I'll act prouder. You sing loud and I'll sing louder. Tonight we're setting the woods on fire. You're my gal and I'm your feller. Dress up in your frock of yeller. I'll look swell, but you look sweller. Setting the woods on fire. We're taking all the honky-tonks. Tonight we're having fun. Show the folks a brand new dance that never has been done. I don't care who thinks we're silly. You be Daffy and I'll be Dilly. We'll order up two bowls of chili, setting the woods on fire. Fix a flat or two. My tires and tubes are doing fine, but the air is showing through. You clap hands and I'll start bowing. We'll do all the laws allowing. Tomorrow I'll be right back plowing, setting the woods on fire. No. Chi era questo? Tu esperto di canto. Era Lewis Oxon Jr. Hank Williams. Ah sì, Hank Williams. A me piace questo elemento. Noto anche come Hank Williams. Noto anche come Hank Williams. Sì, sì. Uno dei padri. Vabbè. Prima di lui Roger Miller con Reincarnation. E prima di lui ancora Loretta Lynn con Tippy Toeing. Grande Loretta. Bella Lori. Tutti, Lori. Everybody loves Loretta. Ci ricordiamo anche la tua Loretta. Forse la tua Loretta delle ripetizioni di austro-ungarico? O che diavolo fosse? Spagnolo. Era una gran topa la Loretta, sì. Ciao Loretta, ciao. Se ci stai ascoltando, ciao. Ti salutiamo. Con ascolta, mentre Franz, mano, mentre Franz mano. Beve, io colgo l'occasione, ricolgo gli appuntamenti. Oh. Allora, ricordiamo che al live di Trezzo, adesso giro, ecco qua, sabato 7 novembre c'è un'importantissima serata rock, i Euro Project, i Dream Company, Big Ones, Tribute Night a Europe, Bon Jovi e Aerosmith. So che tutti voi apprezzerete, un inferno. Quindi cotonatevi i capelli, se ne avete ancora in testa, beati voi, e fatelo. Vediamoci sabato 7 novembre al live di Trezzo. Ci vediamo giù, eh? Oh sì. Sì, non vedo l'ora. Anche tu Loretta, se ci stai ascoltando. Supportate la scena punk. E supportate, già che siete... Esatto. E supportate gli Ormonauts, visto che John Tergo continua. Supportiamo anche gli Ormonauts. E porta una maglietta. E portano figa, però gli Ormonauts, ricordiamo. Sì, ce n'era una totale di 1,80 m bionda, ah, che poteva osannare. Quando lei è andata in bagno, alla fine non ha ricominciato il concerto finché non è tornata indietro, giuro. Vero, è successo, vero, successo. Vero, successo. Vero. È capitato. No, dai, porta figa, l'ho detto. Mentre John, invece, ti ho visto, tu invece sei stato partecipo del ritorno dei Queers in Italia. Dici qualcosa, facciamo anche un po' di recensioni di concerti che abbiamo visto ultimamente. È stata molto, molto, molto sentita. Partecipaci. Dove sei andato a vederli? Sono suonato al Medley a Piacenza ed è stato un bel macello. Era un sacco di tempo che non vedevo un concerto di Queers così partecipato dalla folla. E soprattutto che non vedevo un concerto di Queen. Dei Queers. Ok. Che tra l'altro io non c'ero. Nessun pezzo stasera, quindi la prossima volta. Di cui non abbiamo una clip. Se tu mi ricordi che tu sei un cretino, non hai tante robe con te, io la prossima volta. Mi regolo. 21:51, 99.6 di Radio Onda d'Urto. Potete telefonarci allo 030 456 70, tanto non sappiamo come rispondere e mandarvi in diretta, e comunque non lo faremo. Tuttavia potete venire, condivido la tua linea. Venire tra un'oretta circa al Lio Bar e offrirci una birra. Soprattutto offrire un po' di patatine alle amiche cispi. Un po' di affetto. Se siete la ragazza gonnata di cui parlavamo qualche minuto fa. Show us some love. Ancora pochi minuti prima che Desert Caravan... Anche In Flames dalla Svezia, live. In Flames, non c'è da nulla comunque. Dopo che Desert Caravan verrà qua a settare un po', a migliorare la qualità dei programmi serali. Non ci vuole molto. E naturalmente ricordiamo ancora che se avete iTunes su qualsiasi altra cosa, www.bam-magazine.it, oppure su, basta che vi citate su iTunes Store Radio Bam, e trovate i podcast da scaricare gratuitamente da mettere nel vostro iPhone, iPod, e potete sentirci anche allegramente mentre andate a fare giochi. Wow, una vera figata. Voi di Bergamo che non potete seguirci, perché ahimè Radio Onda d'Urto a Bergamo non si sente, è forse per questo che siamo così rincoglioniti a Bergamo. Penso sia per questo. Ok, sì. dopo di noi Desert Caravan, abbiamo ancora tempo per due o tre pezzi, visto che questa puntata siamo andati un po' sul garage rock and roll country, un po' classicheggiante. Ci andiamo a sentire i Kinks. ascoltiamoli. Non li abbiamo mai sentiti abbastanza. Non si ascolta mai abbastanza i Kings. Mai abbastanza. Una padella di Marge li fece ascoltare una volta, esatto, se ti ricordi quel mitico episodio. Beh, i Simpson, insomma, ne hanno di citazioni musicali. E dopo i Kings invece andiamo a sentirci un pezzo tratto dall'album di Delaney Davidson, edito dalla Voodoo Rhythm Records. Il pezzo si intitola Homeward Bound. Il disco esce esattamente a marzo 2010 su Voodoo Rhythm Records. È molto molto bello, prodotto dal mio amico Mojo Matt Bordin dei Mojo Matics all'Outside Inside Studio. E nient'altro, quindi andiamo a sentirci Kings, poi Delaney Davidson e poi si va tutti allegramente al Beer Bar, dove ci offrirete tante tante birre e tanta gioia. Martedì Cute Lepers insieme agli Snazzy Boys, martedì prossimo mentre andate Cute Lepers dalle 9 alle 10 sul 99.6, 65esima puntata di Radio Bam, che vedrà protagonisti ancora me, Cischi e John Terrible. John Rock e Sagaccia per voi. Esattamente adesso, visto che andrà in onda settimana prossima, ma noi vogliamo andare al concerto. Niente, Kings, nient'altro. Gol. Gol. Settimana prossima, dopo di noi, Desert Caravan. Ciao. Out in the country, far from all the subtle noise of the city, there's a village green. A long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. Was there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw fame, and so I left the village green. I miss the village green. Simple people, I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. And now all the houses are rare antiquities. American tourists flock to see the village green. They snap their photographs and say, "Gore darn it, isn't it a pretty." Grocer boy, and now he owns a grocery. I miss the village green and all the simple people. I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. And I will return there and I'll see Daisy and we'll sip tea, laugh and talk about the village green. See you again. see there's a candle burning. Sleep till the morning.